fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. L'1 e 45 del mattino, sabato 4 agosto del 2018, voi non lo potete sapere perché la programmazione della nostra radio, musicalmente parlando, è casuale in replica, ma abbiamo appena suonato i Bee Gees con Night Fever e guarda un po' il caso, abbiamo una ragazza qui con noi tutta paiettosa che negli anni 80 probabilmente sarebbe stata, come dire, perfetta, a pennello con questa canzone e con questa ambientazione, ma siamo nel 2018 e è un anno, immagino, importante per lei. Perché? Cosa succede? Dici un po'? Perché mi sposo il primo settembre. Il primo settembre, senti con che entusiasmo lo dice. Intanto conosciamoti meglio, come ti chiami? Roberta, mi chiamo. Ok, Roberta, benvenuta, da dove? Da Cortefranca. Cortefranca, che è una bellissima zona del Lago d'Iseo, mi dicevi prima. Franciacorta, un altro fantastico plus della nostra penisola. È vicino, no, Porte Franche, non c'entra nulla, no? Sì, vicino. Quella zona lì, diciamo che c'è. Le torbiere del Sebino. Le torbiere del Sebino. Io ricordavo le Porte Franche, le torbiere nemmeno l'avevo sentite, però mi informerò anche dal punto di vista culturale. Allora, quindi dicevamo, il tuo matrimonio, primo settembre, e chi è il fortunato? Spero. Stefano. Ah, pensavo Stefan Gibb dei Bee Gees, no. Stefano, che è Danny Zucco, no? No, è un normale, cioè nel senso, pensavo fosse... Vedendo il tuo vestito brillantinato, col giubbino di pelle, no, è come dire, trapiantato nel 2018. Ok. Da quanto vi conoscete, da quanto state insieme? Da quasi nove anni, quindi è una lunga storia d'amore, come cantava Gino Paoli. E dove vi siete conosciuti? Immagino in discoteca a questo punto. No. Ci siamo conosciuti per amici, un'amica in comune che andava in classe con lui alle superiori. Sì. E sono con me nella banda lei. Ok. Aspetta che adesso già mi sono entrato in un loop beautiful, perché già troppi nomi e troppe persone. Quindi un'amica in comune. Sì, che era, suonava con te. Sua compagna di classe di Stefano e mia compagna invece che suona con me nella banda. Ok, cosa suoni? Il flauto traverso. Flauto traverso, che è, e lo dico veramente con tutta la forza che ho nel cuore, uno strumento veramente sottovalutato. Perché pensate tutti che sia pipiri, invece no. La melodia. Sì. No, c'è della tecnica, c'è della classe ed è no, veramente un bello strumento. Da quanto lo suoni o magari hai smesso? Da quasi 15 anni. E continui? Sì, sì. Riesci a continuare? Sì. E ancora sei nella banda o hai smesso? No, sono nella banda, siamo appena tornati da Pescara, abbiamo fatto un gemellaggio con gli alpini. Con furore. Bellissimo. La banda sempre del paese di Cortefranca. Sì. Don Giulio Marini di Cortefranca. Ricordiamolo, ci manca. Ci mancherebbe altro, immagino che ci siano altre. Ehi, che mia sorella sono con me anche lì. No, ok. Clarinetto. E lei sa. E sassofono, quindi una gioia di ance in famiglia, sì. Diciamo che si regalano ance per Natale tutti gli anni. No, tu no, esatto. Tra le loro se le regalano. E bello anche questa passione che avete portato in giro per la musica, anche nella vostra famiglia e tra di voi. E non c'è anche un'altra cosa interessante da dire, che è il tuo lavoro, che è un lavoro che magari tante bambine sognano e che tu invece sei riuscita a fare. Dici un po'? Sono un medico. Medico? Vuoi specificare di base? Allora, per adesso sì, sto facendo un medico di base, faccio anche le guardie mediche, lavoro anche in varie case di riposo, un po' eventi sportivi, anche un po' di tutto. Un po' di tutto, vedi, un medico moderno, diciamo così, un medico moderno. E la domanda che facciamo spesso di fronte a queste grandi passioni, anche immagino, è il pallino che hai avuto già da bambina o è un qualcosa che hai scoperto? Mi è scoperto, prima volevo fare l'insegnante, la maestra in realtà. Poi pian piano mi è venuta questa cosa. Beh, comunque sempre a disposizione degli altri, sì. Diciamo così. Ti è venuta, e quando ti è nata sta croce rossa sul cuore? In quarta superiore, quando abbiamo fatto un tirocinio con la scuola, eravamo in poliambulanza. Da sì. È nato un po' tutto, poi anche con i vari telefilm, sai. C'è stato adesso un po' è scemata. Diciamo che no, a parte quello, diciamo che se mettiamo su una bilancia, c'è stato un Grey's Anatomy, ER, Dr. House, chi più ne ha più ne metta qui, e adesso sta arrivando MasterChef, Bake Off. Diciamo che hanno preso quello che era la medicina in televisione qualche anno fa, adesso l'ha preso la cucina. E quindi tu da lì sei rimasta affascinata. Ed è anche in questo caso il medico di base, l'idea che avevi della tua carriera o puntavi ad altro? No. Ti piaceva quello? Sì. Ti piaceva quello? Più nel quindi... i miei peselli. Ah, vedi? Pazienti. Vedi? Sì, una... come dire, non sogni in grande, ti piace la dimensione locale. Dopo immagino ci sarà molto il raffreddore, la tossicina, sì, il mal di gola, cioè nulla di... conosco molto meglio le persone. Sì, dopo dico, mai cose esaltanti o comunque dipende, sia... Dipende. Ah, perché ti è capitato anche di trattare cose un po' più gravi? Perché magari sono quelli che arrivano... che hanno un dolore magari da qualche giorno, in realtà magari una colica renale è una cosa anche abbastanza importante. Beh, però si crea anche una sorta di intimità, anche un rapporto molto affettivo con le persone. E ti capita anche di andare a casa di qualcuno? Vabbè, immagino. Ma vai con la borsina, certo, con la valigetta. La mia valigetta da medico. Fantastico, con la valigetta, sempre affascinato, sono sempre stato affascinato dalle valigette dei medici che arrivano. Ti regalano i salami a Natale. Addirittura. Dillo che l'hai fatto per il salame a Natale. Ma si vede. Beh, ma a parte che è giusto ed è bello, però è bella anche l'immagine del medico che arriva con la valigetta, che sembra il salvatore della patria, perché poi quando lo chiami vuol dire che ne hai bisogno davvero. Allora, a parte tua sorella e la sassofonista, che non ho capito però che rapporto abbia con te. Ah, una tua amica? Sì. Parlaci anche delle altre due. E Silvia, che è sempre un'altra mia amica d'infanzia, ci conosciamo da quando eravamo all'asilo. Ok. Elisa, ci siamo conosciuti alla banda, praticamente, anche vabbè, all'asilo, però di più alla banda. Poi c'è Alice, che è una cugina acquisita, perché ha fidanzato mio cugino. Ah, ok. E poi c'è mia sorella. E tua sorella, di cui abbiamo parlato prima. Siete le uniche o c'è qualcuno che è rimasto fuori? No, c'erano altre ragazze, però sono andate via. Perfetto, nemmeno si ricorda i nomi, le sì, hanno no. incontrate. Ah, ok. Pensavo che... Cristina, Sonia, Silvia, Elena... Pensavo che le aveste aggiunte durante la serata. No, ve le ricordi. Te le ricordi bene. Ok, allora mi ha fatto piacere, ecco, raccontare un po' di te, visto che hai tante cose belle da dirci. Andrai avanti con la banda a suonare? Sì. Oh, brava. Ma la prima canzone che hai fatto è stata Fra Martino, immagino. No, Titanic la prima. Titanic? Sì. Era già un livello... È un livello pro Titanic, eh? Bene, mi fa piacere. Mi raccomando, continuate a seguire queste vostre passioni e soprattutto facciamo ancora tantissimi auguri alla nostra Roberta per il suo futuro matrimonio. Grazie. Sei carica, vedo che è molto ottimista, molto contenta. Sono quindi... un po' agitata però. Vabbè, diciamo che fa parte del gioco, poi però la soddisfazione ripagherà anche di questo. Grazie mille ancora ragazze, buon divertimento e buona serata. Ciao! Grazie.